Ma su quella per me per il mondo a quant'altri intorno, intorno mi vedo, nel mio cuore l'impero non cedo, meglio ad una che ad altre metà. Corre avvenente quel dono di quel vado per il mio orrore. La vita di questa mi torna gradita, forse un'altra domando sarà una. La costanza si rende del cuore del sentiamo quel morbo, quel morbo crudele, quel che vuole si servi fedele, non va morte, non c'è libertà, dei mariti il geloso furore, delle amanti le smonie, se rido, a codargo, e cento occhi di sfide, semmi pure, una qualche beltà a te. Qualche beltà.